soldi Grillo in piccola parte, come, però come sappiamo hanno raccolto, se ne parlano secoli, studenti, mamme, genitori, donne, uomini, vecchi e giovani, ricchi e poveri, si sono rotti il cazzo da secoli, anche brava gente, hanno raccolto milioni di voti, noi voi bisnonni e nonni dicevamo imitiamole, con l'intelligenza si può spaccare il mondo, poi sarebbe anche da ammazzare, lo sappiamo. Io mi ho mandato a fanculo Cooperati, PD, PDL, Bologna al mondo, mamme, genitori da solo, dottoresse, anche anni fa, l'altro testa di cazzo, basta, a parlare di morti, a Bologna al mondo, è da anni che non lavoro, che non studio. Ho girato l'Italia con i megafoni in mezzo alle piazze, non. Italiani, esteri, sanno, è da solo. Vediamo. Poi ci mancava sto momento di merda. Basta, dovete ascoltare, scusatemi. Spargete la voce, ci vediamo. L'università, basta.